Lascerò ogni mia cosa, i miei cari, la mia casa. Lascerò questo mio mondo, in un istante, in un secondo. Lascerò solo un ricordo, il mio corpo in un sepolcro. Passerò come fa l'oro per il fuoco del crogiuolo. Tu dacci il cielo, Gesù, il paradiso sei tu. Stendi la tua mano, donaci il perdono. Tu dacci il cielo, nai na na na na na na, nai na na na na na na, nai na na na na na na. Passerà anche la terra, tra le doglie, tra la guerra. Passeranno questi cieli, mille anni in un giorno. Passerà questa mia fede, ogni sogno e la speranza. Resterà solo l'amore, ciò che ho fatto con il cuore. Tu dacci il cielo, il cielo, Gesù, il cielo, il paradiso, il cielo, sei tu, sei tu. Torna vittorioso, ritorna, risusciteremo, ritorna. Tu dacci il cielo, nai na na na na na na, nai na na na na na na, nai na na na na na na. Tu dacci il cielo, Gesù, il paradiso sei tu, torna vittorioso.